la versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, 16:30 primi e 21 secondi, qui in diretta da Milano, tornata piovosa, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast Oscar Giannino. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it, sia per candidarvi alla serie Italia non per giovani, sia per altri qualunque temi per trasmissioni o critiche, domande, eccetera eccetera. Allora, oggi facciamo un altro passo verso la ricognizione, invece argomento della puntata, su quanto i dati che abbiamo accumulato, la serie di dati di cui abbiamo già parlato in alcune puntate questa settimana, abbiamo il quadro della complessivo delle dichiarazioni fiscali IRPEF presentate nel 2016, quindi sui redditi del 2015, ne abbiamo già parlato con il professor Dario Stevanato. Abbiamo oramai l'andamento assestato anche del PIL 2016 con un'ulteriore correzione statistica, quindi sarà più 1% alla fine, e abbiamo un grande dibattito aperto per via anche degli sviluppi politici in corso al PD, il congresso che si avvicina con le primarie prima del congresso, i dubbi se si raggiungerà il 50% in cui scelgono direttamente gli elettori le primarie o se per via anche delle vicende giudiziarie Renzi non dovesse prendere il 50%, molti continuano a darlo molto improbabile questo, però in quel caso saranno i delegati al congresso a scegliere. Ma si è aperto sullo sfondo di queste vicende anche nel PD un confronto politico aperto che era quasi imprevedibile fino a poche settimane fa. Per esempio Carlo Calenda, che ieri mattina il ministro attuale dello sviluppo economico, che ha detto con una certa chiarezza che ha suscitato molti commenti sulla stampa stamane, di segno diverso, e ha detto due cose di un certo peso, perché ha detto da una parte che non spetta al governo predicare ottimismo, aggiungendo come non dovrebbe spettare all'opposizione predicare pessimismo, bisogna guardare i dati e la realtà e quindi bisogna essere realisti, questo è il primo concetto espresso da Calenda, però capite bene che nel dire non bisogna essere predicare ottimismo appare come un basta con lo storytelling troppo positivo di Renzi. E dall'altra parte ha detto proprio i numeri ci dicono che non c'è bisogno di inventare, questo è il verbo usato ieri al Quirinale da Calenda, di inventare bonus, di inventare redditi, e anche in questo caso ovviamente non c'è bisogno di inventare bonus, è un chiaro giudizio sulla politica dei bonus perseguita per 3 anni dal governo Renzi. Dall'altra parte c'è un giudizio altrettanto duro nei confronti della gara che si è aperta di fatto tra 5 Stelle con il loro reddito di cittadinanza, però lo sostengono da anni, e dall'altra parte con il lavoro di cittadinanza annunciato, ma come puro slogan per il momento, da Renzi, in attesa di capire in che cosa si sostanzierà davvero, e con Berlusconi che a propria volta ha detto anche noi faremo la nostra proposta di reddito di cittadinanza. Questo è lo sfondo, per così dire, quindi dati e confronto politico. Abbiamo esteso, come facciamo sempre, di volta in volta, ogni X mesi, però oggi, nella puntata di oggi, sentiamo come la pensano sui dati, quindi sia sui dati di crescita, andamento del reddito, complessiva immagine che esce fuori dalle dichiarazioni dei redditi, e quello che ci attende su consumi e investimenti, un pezzo senza il quale non si fanno bene i conti, secondo me, perché va bene il Centro Studi di Confindustria, va bene l'Istat, va bene tutto, va bene il MEF, però visto che i mesi che stiamo vivendo stornano a avere come traino per quel po' di crescita italiana l'export, che sta andando meglio oramai rispetto ai 2 anni che abbiamo alle spalle e a una crescita del commercio mondiale che nel 2016 è stata di poco superiore all'1% oramai, quindi stiamo parlando di andamenti negli ultimi 2 anni del commercio mondiale al di sotto della crescita mondiale, era esattamente l'opposto negli anni diciamo, in cui la globalizzazione post 2001 e quindi l'ingresso della Cina al WTO ci aveva abituato a un tasso di crescita del commercio mondiale che era largamente superiore all'andamento del PIL mondiale. Adesso non è così, da anni invece le cose stanno andando meglio da questo punto di vista, perché tutti i segnali sono quelli di una capacità della Cina di fare un atterraggio morbido che non sfugge dal controllo. Gli Stati Uniti vanno bene, già erano andati bene nel 2016, ma i segnali sono fortissimi di attesa verso i tagli fiscali confermati al Congresso dalle imprese e anche alle persone fisiche dal presidente Trump, e quindi ci si aspetta una crescita degli Stati Uniti che addirittura potrebbe passare dall'1,5% al 2%, e per tutto questo il commercio mondiale sta andando meglio. Ci sono segnali anche dagli emergenti: l'India sta uscendo dalla crisi provocata da quella singolare manovra di ritiro dei biglietti della valuta di più basso valore, che aveva portato la Cina a impiombarsi. La Russia inizia a uscire dalla sua crisi. I prezzi delle materie prime, con l'andamento del petrolio oramai sopra i $56, fanno andare meglio anche i paesi esportatori. Tutto questo però ci ha portato a una situazione, fine della mia introduzione, che vede di nuovo la componente di domanda estera a esercitare il traino, ma il nostro terribile problema è risolto a fianco a quello della produttività, di cui ne parleremo domani. Vedrete, domani approfondiremo di nuovo il termine della produttività, perché ci sono cose nuove che escono nel report dell'Istat sulla competitività dell'Italia, uscito oggi, che vi consiglio di leggere, è molto interessante. Ci sono dei segnali positivi, ma ne parleremo domani di quello. Ma al di là di quello, il grande problema italiano irrisolto è quello terribile della domanda interna, cioè dei consumi e degli investimenti, e non si può fare un ragionamento su queste cose senza sentire anche Confcommercio, di cui la scelta che ho fatto oggi, come facciamo sistematicamente, di invitare Mariano Bella, che è il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi, Mariano. Buon pomeriggio, grazie dell'invito. Allora, partiamo dal presupposto. Voi avete all'inizio, a febbraio voglio dire, avete fatto un punto complessivo già sul 2016 e sul 2017, ed era un punto, diciamo, che non induceva a grande ottimismo, o sbaglio? No, a grande ottimismo no, ma neppure a grande pessimismo, giusto per rimanere sui suggerimenti del ministro Calenda. Però vorrei prima dire una cosa, sì, sul bonus. Sì. Dunque, giustamente Calenda mi pare abbia stigmatizzato in modo negativo questa politica dei bonus, però forse si potrebbe fare, visto che lui è ministro del Consiglio dei Ministri, forse potrebbe fare una giustatina, diciamo, rispetto alla legge di bilancio, nella quale leggo esserci garanzia accesso API, API sociale, 14esima pensionati, pensionamento lavoratori precoci, usurati, salvaguardati, ottava salvaguardia, sostegno natalità, premio alla nascita, licenza paternità, buono nido, babysitter lavoratori dipendenti, babysitter lavoratori autonomi e poi tante altre cose. Quindi diciamo ancora siamo nell'ambito dei bonus, pieno ambito. È abbastanza incredibile. Risultato: da 3 anni andiamo avanti con i bonus, nell'ultimo anno c'è stato un crollo della fiducia delle famiglie, che è il dato secondo me più preoccupante, perché c'è poco da fare, non possiamo attenderci consumi al 2% con una fiducia che si riduce da 14 mesi più o meno consecutivamente. E le prospettive per il futuro non sono particolarmente negative, però non possiamo essere soddisfatti di una crescita attorno all'1%. Per noi l'1% riusciamo a farlo nel 2017. Nel mese di gennaio abbiamo questi numeri. Il fresco più confezionato in termini, diciamo, di alimentari, chimico gas, eccetera, cresce del 2,5%, questo dice la Nielsen. Le auto immatricolate a privati gennaio e febbraio complessivamente fanno più 1%, niente di speciale, però insomma è un dato comunque positivo. Benzina e gasolio, quindi sia consumi che business, non abbiamo la distinzione, crescono di 4 decimi. E poi abbiamo gli investimenti commerciali, industriali e veicoli rimorchiati, crescono tra il 3 e il 20%. Quindi l'inizio del 2017 non è particolarmente brutto, è in rallentamento rispetto, diciamo, alla prima parte del 2016, che ha avuto una seconda parte meno entusiasmante, no? Quel secondo trimestre che ha chiarato un po' di punti interrogativi, quando sembrava che la crescita fosse finita, eccetera, eccetera. Poi invece gli ultimi 2 trimestri siamo andati benino, niente di speciale, però insomma non siamo tornati indietro. Quindi le prospettive di fare l'1% nel 2017 secondo noi ci sono tutte. Certo, con questa fiducia, con l'incertezza politica, che poi non è una cosa vaga, ma è una cosa precisa, cioè le aziende come fanno ad assumere o a investire di più, anche se gli investimenti sono cresciuti un pochino nel 2016, quando diciamo le regole, la dimensione giuridica che deriva comunque dal Parlamento è costantemente incerta, pensiamo a Jobs Act. Noi abbiamo un'Italia in cui ci sono alcuni che costruiscono e altri che disfano. Senti, ma pronto? Sì, ecco. Ecco, le spiegazioni che vi siete dati all'andamento, ohimè, consolidato da mesi, al ribasso dell'indice di fiducia delle famiglie, qual è? Il fatto che perché manca... Perché voglio dire, c'era una forbice molto evidente tra l'andamento della fiducia delle famiglie e quella delle imprese. Sì, ma diciamo la fiducia delle imprese è prima cresciuta e poi ora oscilla su un trend abbastanza piatto, però diciamo, ha comunque smesso di crescere. Alla fine imprese grandi o imprese piccole, alla fine siamo tutte persone, tutte consumatori, tutte famiglie, tutti cittadini. Cos'è che manca? Manca la percezione da parte dell'opinione pubblica, quindi dei cittadini e quindi delle famiglie dei consumatori, che veramente il Paese ha intrapreso un processo di riduzione della pressione fiscale generalizzata che magari può derivare da un taglio alla spesa pubblica. C'è poco da fare. Il fatto che l'ISTAT ci dica che abbiamo ridotto di 0,4 decimi la pressione fiscale nel 2016 non è assolutamente sufficiente. Per adesso il Paese vive nella logica dei bonus, delle discriminazioni, e questo purtroppo è stato un esercizio che non ha sortito gli effetti sperati. C'è poco da fare, che non vuol dire che i bonus non sono stati spesi anche per consumi, ma non c'è stato quel rasserenamento collettivo che spinge i consumatori a far crescere i consumi attorno all'1,5-2%. Tra l'altro, negli ultimi sei mesi del 2016, con prosecuzione con i dati che abbiamo detto, siamo passati da un tasso di crescita dell'1,5% a un tasso di crescita dell'1% dei consumi, per cui noi riteniamo che nel futuro prossimo andranno meglio per fare quell'1% di PIL gli investimenti e magari le esportazioni piuttosto che i consumi. Voi avevate una slide nel vostro ultimo report che faceva appunto metteva giù i dati con interpretazione sul 2017, una slide che mi aveva colpito molto a questo proposito, che collego esattamente a quello che hai appena finito di dire, perché la slide diceva errori nella politica fiscale. Sì. E gli errori nella politica fiscale erano esattamente, i bonus non hanno veicolato il messaggio di riduzione della pressione fiscale, perché le percezioni che portavate erano percezioni di una stragrande maggioranza del vostro, esatto, campione, che diceva che la pressione fiscale, esatto, era aumentata addirittura. Esatto, e qui c'è da dire che francamente gli italiani in questo momento si lamentano anche quando non dovrebbero, ma quando anche diciamo per stare dalla parte dei bottoni aggiustiamo questi sondaggi che abbiamo capito che vanno letti con attenzione, non vanno presi superficialmente eccetera, quando anche li aggiustiamo e raddoppiamo la quota di soggetti che dice la pressione fiscale è diminuita, abbiamo sempre uno sbilancio di 40 punti a favore di quelli che non se ne sono accorti oppure che ritengono che sia cresciuta. Cioè i bonus sono un messaggio ambiguo che non viene percepito dalle persone. Non abbiamo presentato un solo sondaggio, ne abbiamo presentati tre fatti su imprese, consumatori e da due società di ricerca differenti. Quindi con questa struttura della fiducia c'è poco da fare. Noi in termini di consumo non possiamo aspettarci granché. Pensiamo a tutte le aree dei consumi più importanti, l'alimentare, l'abbigliamento, che mostrano deboli segnali di crescita ma che non sono assolutamente sufficienti a riportarci, non dico ai livelli del 2007, ma neppure ai livelli del 2011. Quindi c'è ancora molto da fare su questo. Io prendo con grande piacere le intuizioni del ministro Calenda. Spero che a queste suggestioni segua una modificazione della politica fiscale in un senso di una ristrutturazione chiara, un po' come si ventila per quanto riguarda gli interventi sociali a sostegno, a mitigazione della povertà. Però scusa un secondo Mariano, sempre nelle vostre indagini su cui poi avete fatto il commento, la slide, quella precisa che ti ha indotto adesso qui a dire la riduzione delle tasse, a me pone un problema serio e ti spiego qual è. Poiché tutto tutto il dibattito della politica, dalla destra all'area di governo ai 5 Stelle, è tutto spostato sulle misure di contrasto alla povertà, è tutto spostato rispetto all'area di chi non ha beneficiato in alcun modo degli 80 euro, che erano per la fascia 8.000-26.000 euro e poi fino a 28.000 euro andavano rapidamente a decadere il bonus. Ne abbiamo parlato interpretando i dati fiscali, abbiamo visto quegli 11,9 milioni che ne hanno beneficiato e poi chi ha dovuto restituire per ovviamente i fenomeni di mobilità del livello di reddito nell'arco dell'anno. Però mentre la sensazione delle forze politiche va tutta su incapienti, poveri e magari smontare la Fornero, quindi prepensionare un po', che sono due fenomeni completamente diversi, però i partiti li assommano, il vostro sondaggio dice invece, queste le percentuali sono queste. Alla domanda, secondo lei quale delle seguenti opzioni sarebbe più utile per migliorare la condizione economica della sua famiglia? Nel vostro sondaggio la risposta è la riduzione delle tasse 71,5%, le misure di contrasto alla povertà il 16,1%. Come è possibile un divario di percezione così forte tra quello che pensa l'opinione pubblica fotografata dal campione del vostro sondaggio e la sensazione invece dei partiti che vanno in tutt'altra dimensione? Ormai diciamo c'è una mancanza di approfondimento dei temi più seri, per cui va bene, fa un po', almeno si immagina che possa fare un po' di consenso il fatto di dire aiutiamo i più deboli, per l'amor del cielo, figuriamoci se non vogliamo aiutare, certo, i più deboli. Ma le dichiarazioni fiscali, io per primo sono stato tra quelli che hanno sempre criticato gli 80 euro perché erano un enorme problema da questo punto di vista. Esattamente, perché gli incapienti non andavano, va bene, aiutiamo i più deboli, però quando le persone rispondono che è la riduzione delle tasse la priorità, vogliamo pensare anche a quel 63% di contribuenti che tra 10.000 e 50.000 euro paga il 60% dell'imposta netta, o soprattutto a quel benedetto medio ceto medio che tutti ci lamentiamo sta scomparendo ma che non viene aiutato minimamente? Il 5,2% dei contribuenti per l'anno fiscale 2015 ha guadagnato un reddito complessivo del 23% del reddito complessivo e ha pagato quasi il 40%, esatto, di imposta netta. Esatto. Allora, se il ceto politico non si ferma un attimo a riflettere sul fatto che nella solidarietà il sostegno ai più deboli, gli ospedali, le strade, la pulizia, per quanto poca che riusciamo a fare, le possiamo fare prendendo i soldi dai più abbienti, forse riusciamo a capire che una carezzina ogni tanto anche a questi più abbienti bisogna farla, perché sennò poi non lamentiamoci se le persone vanno a lavorare altrove. C'è un eccesso di progressività e quando noi diciamo che è fondamentale un taglio generalizzato. Tu questo capisci che adesso ti devo interrompere un secondo perché andiamo per il minuto di traffico, però capisci che questo è controintuitivo, perché la gente non la riusciamo a convincere. Io sto battendo ogni giorno in questi giorni, da che è uscita la nuova piramide dei redditi, per così dire, delle ultime dichiarazioni rese note dal MEF, io continuo a ribattere questo dato ai nostri ascoltatori. Dico guardate che un paese che pensa di dover fare un welfare più equilibrato, e dove il problema non è aumentare la spesa pubblica, perché ve lo ripeto anche oggi, noi abbiamo una spesa sociale che è più della metà del totale della spesa pubblica, è al 27,5% del PIL, se ci mettete anche poi le frazioncine ancora di quello che resta, la politica della casa eccetera, siamo quasi al 30% del PIL, quindi è una politica sociale nelle sue diverse componenti tra le più elevate dei paesi europei. Il problema è che è enormemente squilibrata, troppo sulla previdenza, cosa che la gente insorge, però è così, resta così, e quasi 17 punti di PIL e troppo poco sul resto. Ma il problema è, cari ascoltatori, che comunque vogliate intervenire, la base imponibile dell'IRPEF è in via di erosione anno dopo anno e 37,5 milioni di italiani sul totale di 60,8 milioni, cioè coloro che corrispondono a chi presenta dichiarazione dei redditi da 0 a 20.000 euro e quindi nel migliore dei casi paga poche centinaia di euro di imposta l'anno, sto parlando solo dell'IRPEF, 37,5 milioni sono praticamente a carico del totale di non superiore all'11,5% del totale dei contribuenti, di 40 milioni di contribuenti, cioè quelli dai 35.000 euro in su che pagano da solo il 52% dell'IRPEF. Non è possibile immaginare neanche un paese più equo, un paese in cui l'IRPEF si poggia su queste basi così squilibrate. Tra un minuto torniamo con Mariano Bella di Confcommercio, lo seguo il capo dell'ufficio studi. Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda, è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui, sentendo anche Confcommercio col capo del suo ufficio studi Mariano Bella, per tentare di capire qual è la loro sensazione su quello che sta avvenendo una volta che sono assestati i dati 2016. Avete sentito, la fiducia delle famiglie risente del fatto che i bonus non veicolano l'idea della diminuzione della pressione fiscale, cioè di poter davvero impegnare quote maggiori del reddito disponibile in consumi. La domanda che ti faccio a questo punto è, ma tu che opinione hai, che voi che opinioni avete di fronte poi alla legge di bilancio 2018-2019, che attualmente poi può modificarsi tutto, può esplodere l'Europa, può vincere Le Pen, non lo so, ma attualmente noi abbiamo una legge 2018-2019 che mette di fronte a qualunque governo sarà in carica nel prossimo autunno 40 miliardi nei due anni sommati di clausole fiscale, con l'impegno contratto di diminuire di 2 punti di PIL il deficit con l'Europa, che sono altri 33 miliardi. Adesso io non so, ma perché a me questo suscita totale non credibilità di questo piano biennale, ma tu che pensi? Noi siamo fortemente preoccupati, perché ogni anno che giochiamo a mettere le clausole di salvaguardia e poi a toglierle, ecco, ogni anno che passa la seconda parte, cioè il toglierle, diventa sempre più difficile. E io francamente qualche dubbio ce l'ho sul fatto che si riescano a disinnescare. Tra l'altro la Commissione europea sarebbe molto felice se noi aumentassimo le imposte indirette, che sarebbe invece un disastro dal punto di vista dei consumi e quindi della domanda interna complessivamente. Tra l'altro abbiamo visto che le imprese investono e assumono persone se insieme al treno della domanda estera c'è quello della domanda interna. Esatto. Se non ci sono andiamo a vedere il segnale del PMI, cioè degli indici anticipatori sugli acquisti delle imprese, la stima che viene dalle imprese è di una componente di domanda interna che resta molto bassa, insomma. E quindi le dinamiche degli investimenti e dell'occupazione, noi l'occupazione ad esempio la vediamo in forte rallentamento, una crescita, ma non solo noi, una crescita intorno a 0,4-0,5 proprio per il fatto. Sì, nel 2017, a differenza di due anni alle nostre spalle, la crescita del totale degli occupati sarà largamente inferiore a quella dell'andamento del PIL nei due anni alle nostre spalle, per effetto della contribuzione al contrario. Esatto, per effetto del fatto che i bonus generano assuefazione, quindi o ne dai sempre di più oppure quando li togli la risposta scema, si riduce. Quindi grande preoccupazione, non vedo e non ho sentito delle proposte, nemmeno come esatto, rumors, su come togliere queste maledette clausole di salvaguardia. A un certo punto si era detto che queste clausole venivano eliminate. Io mi auguro che un giorno, spero presto, le clausole saranno spesa su spesa e non spese su tasso. Ah, cioè, quel giorno io non ci sarò più, ma io non ho molta fiducia. Aspetta che c'è un'ascoltatrice, Carla, che ci chiama da Verona. Sentiamo qual è la sua impressione. Carla, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buonasera. Volevo fare solo un'osservazione. Mi pare quasi comico che si parli del fatto che le famiglie non acquistano, perché non si fa mente locale al fatto che le famiglie debbono spendersi, e parlo dei cosiddetti cinquantenni benestante, categoria nella quale mi posso inserire, che i nostri figli non trovano lavoro. Abbiamo genitori anziani che per accedere al Servizio Sanitario Nazionale sono gravati da continui ticket, tasse, costi ricetta eccetera, ma dove seriamente pensano che vengano messi i soldi dei cinquantenni a tenere su la generazione che li precede e quella che li segue? Ecco, Carla ci dice che poi è una cosa assolutamente veridica e confermata dai fatti, cioè pur spendendo in spesa sociale quello che vi ho ricordato prima, noi continuiamo a chiedere alla famiglia di assolvere la funzione di unità di base di integrazione dei redditi. La famiglia, cioè il patrimonio accumulato dalla generazione precedente e quindi il reddito che esso genera, veicolato su quelli che continuiamo a tenere fuori il mercato del lavoro fino a età improbabilmente elevati, o comunque a quel punto, se entrano, per il poco che ci entrano con redditi bassissimi. E su questo, ultima domanda, visto che ci sarebbe l'impegno per una riforma complessiva dell'IRPEF nel 2018, ma tu credi che esista davvero questo capitolo nella testa dei partiti? Non mi pare che di sentire nulla, Mariano, che dici? È vero, non si sente nulla su una riforma complessiva. Mi pare che circola qualche documento interessante sulla riforma delle imposte per quanto riguarda le imposte green, diciamo la carbon tax, sì. Diciamo che noi abbiamo anche tanti consulenti importanti della Presidenza del Consiglio, del Governo, eccetera, che sono persone anche molto in gamba, sì, molto, sì, molto dotate anche culturalmente. Possibile che non riusciamo a trovare 15 giorni per ragionare di grandi principi in luogo questa, di ragionare secondo della me è una grande proposta, è una grande proposta, cioè qualcuno dovrebbe capire che è venuto il momento di un seminarione riservato tra un po' di teste che rappresentino pezzi d'Italia su questo dannato problema della convergenza delle aliquote il più possibile neutro di imposta sui diversi tipi di redditi. Non so quanti siamo a pensarla così, però sarebbe molto utile che invece di fare interviste, polemiche, qualcuno si occupasse seriamente di questa cosa. Intanto un abbraccio e un ringraziamento a Mariano Belli, a tutto quello che fate, e voi continuate sulla 24, appuntamento con me Alessandro, no, con me Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Semineri, Renato Cifarelli, dalle 10 alle 12 domani mattina a Conti della Belva.